addormentato. E quante notti io correvo sulla strada, quante notti io non ho dormito. Pensando solo a te, quante notti io ho cercato nella stanza, e quante notti ti volevo vicino a me, quanta strada ho percorso e disegnavo il tuo nome. Aveva detto no, ed il mio cuore non voleva sapere di star senza te. Quante notti ho sognato di avvicinarmi a te, e quante volte ho pensato di averti. Quante notti mi tenevi sveglio, ma il destino no, aveva detto no, ed il mio cuore non voleva sapere di star senza te. Strada. E quante notti son tornato lì sotto casa tua, quante notti son passato da quella volta, ma ognuno viaggia per la propria strada e uno va per il proprio deserto infinito. Forse tardi, ma chissà quando deserto infinito. Forse non verrai, ma io ti deserto aspetterò infinito. Forse in vano sarà, ma io deserto ci sarò infinito. Il tempo passerà, ma che misero. I don't know.